Siamo alle battute finali dei Delitti nella cattedrale, un pregevole giallo di Colin Dexter, uscito nel 79 in Inghilterra e nell'88 qui da noi. Il giudice vuol sapere dall'ispettore Morse se l'imputata, accusata di favoreggiamento in un caso di feroci omicidi, intrattenesse con l'assassino rapporti intimi. La prima domanda è questa. Lei è indubbiamente a conoscenza del fatto, confermato davanti a questa corte da testimoni, che la signorina si era recata più volte a casa dell'assassino durante quell'estate? Sì, vostro onore, ne sono al corrente, risponde Morse. E secondo la sua opinione queste visite erano di semplice cortesia? È così, signore, è così, conclude Morse. Più tardi, nella medesima udienza, vengono ricostruite le drammatiche fasi in cui l'ispettore Morse salva l'imputata medesima dalle grinfie del feroce assassino. E il giudice chiede all'ispettore: mentre lei ascoltava la conversazione fra l'imputata e l'assassino, ha udito qualcosa che possa essere considerato dalla corte un attenuante alle accuse rivolte all'imputata? E Morse, dopo un attimo di imbarazzo, dice: ho sentito che la signorina diceva che aveva deciso di andare alla polizia e confessare tutto. A quel punto io lettore attento, devo dire, dei gialli di Colin Dexter, io lettore corro a sfogliare le pagine indietro e vado a rileggermi il colloquio parola per parola occorso a suo tempo fra l'imputata e l'assassino. Beh, di andare alla polizia e di confessare non se ne fa cenno alcuno. L'ispettore dice una bugia, come sulla questione dei rapporti intimi. Morse sa benissimo che l'imputata andava a letto con l'assassino. L'accusa di favoreggiamento non nasce per caso. L'ispettore mente. E perché mente? Perché mente? Lo si capisce nelle pagine conclusive. 18 mesi dopo, ecco che quel vecchio sporcaccione tenta un approccio inequivocabilmente sessuale con la stessa signorina in questione, che intanto ha pagato, come si suol dire, il suo debito alla società e che gli dice di sì entusiasticamente. Ogni tanto dunque le motivazioni che stanno alla radice di una bugia sono chiare. L'altro giorno sono alla stazione centrale di Milano. Mi trascino un borsone verso la vettura di testa. Devo partire, sono regolarmente in anticipo. Sul marciapiede non c'è nessuno. A quanto sembra il posto che ho prenotato è proprio in cima e cammina, trascina, finalmente c'è qualcuno. Incontro una ragazza, sì, in un completo grigio, che va dritta ad un telefono pubblico. Soppeso e proseguo, mentre lei infila la carta magnetica. Io vado avanti, ecco, finalmente ecco il mio vagone, salgo sul mio vagone e percorro il corridoio verso il mio posto. Nello scompartimento c'è un tizio con un cane. Appoggio la mia roba e guardo il cane, che è giovane ed è proprio un bel cane. Lui mi fa: Akame, sono io. Non è il cane che parla, è il padrone che allora, vabbè, lo degno di uno sguardo e lo riconosco. Ah, sei tu. Guardavo il tuo cane, che è proprio un bel cane. Che ci fai qui? Viaggiamo assieme allora? E questo mio amico, che non vedevo da anni, mi dice allora che no, che non viaggia affatto con me e che lui rimane a Milano. Nello scompartimento c'è per tenere il posto alla sua ragazza, che nel frattempo è andata a comprarsi dei giornali per il viaggio. Tutto ok dunque, e diamo stura alle chiacchiere. Vabbè, da quanto non ci si vede, cosa stai facendo, abiti sempre là, e il tale come sta, eccetera, passano i minuti. Dopo un po' compare sulla porta una fanciulla dallo sguardo interrogativo e lui mi presenta la sua ragazza, che veste un completo grigio, che è la stessa che ho visto prima al telefono, che soprattutto non ha con sé alcun giornale. Tanto è vero che lei, dopo un po', chiede che ore sono e, appurato che alla partenza del treno mancano ancora 5 minuti abbondanti, chiede a lui se gli va a comprare un giornale da leggere in viaggio, dice. E lui ci va, di corsa con il suo bel cane, di corsa torna con cane e giornale. Poi abbracci e baci, ci vediamo presto, te la fido per il viaggio, farò del mio meglio, addio addio, che i signori sono in carrozza. Perché mi ha mentito? Ci ho pensato tutto il viaggio. Ho elaborato ipotesi e tesi, ho scrutato la fanciulla da ogni angolazione perché senza volerlo mi rivelasse questo segreto, ma non l'ho capito. Perché diavolo mi ha mentito? Perché ha preferito dirmi che la sua ragazza non c'era a causa di un giornale mancante piuttosto che di una telefonata non mancante? Che lei avesse mentito a lui è fuori discussione. Sarebbe tornata davvero con un giornale e non avrebbe poi chiesto proprio a lui di andarglielo a prendere. Qualsiasi comportamento truffaldino fra loro è da scartarsi. Il comportamento truffaldino è soltanto nei miei confronti. La bugia c'è stata, sicura come l'oro, ma le sue motivazioni mi rimangono oscure. Mi viene perfino da pensare che lui, interrogato in proposito, ne possa magari anche sapere meno di me. Può anche capitare, perché non sempre la bugia è il tassello adatto in un quadro adatto, perché non sempre la parola rispetta un programma, perché a volte nell'agire quotidiano un programma non c'è. Ma anche così stando le cose, una radice profonda della bugia, una radice che supera l'individuo per compenetrarsi in una società, in un modo di fare e di essere, magari una radice c'è. E qui magari faccio come nei gialli di Hillary Queen, un attimo di pausa per una sfida al lettore, all'ascoltatore, come avrebbe risolto lui, come avrebbe dato una risposta al quesito. Perché la bugia? Tenete presente che i vecchi rapporti fra me e questo individuo che ho ritrovato in treno erano un pochettino di autorità. Un attimo di pausa, pensateci su. È vero che lei avrebbe potuto lasciare lo scompartimento con due scopi, telefonare e prendere il giornale. E che lui può avermene dichiarato per fare alla svelta uno solo e che poi lei, dopo la telefonata, può essersi dimenticata dei giornali. Ma allora al ritorno lui l'avrebbe detto. Ti sei dimenticata del giornale? O quando lei gli avesse chiesto di andare a prenderglielo, lui gliel'avrebbe fatto notare, se non altro per correggere la dichiarazione resa a me. Anche nel caso che l'esito della telefonata imponesse un suo ritorno allo scompartimento, che so, una notizia assolutamente ghiotta d'improvviso, ugualmente la replica della missione in cerca di un giornale avrebbe richiesto una giustificazione esplicita nei miei riguardi. No. La bugia, volontaria o meno che sia stata, deve essere spiegata per altre vie. Una soluzione più semplice prevede che lui, al vedermi e dal riconoscermi, si sia un po' emozionato e confuso, ma non si capirebbe poi perché questa emozione lo abbia indotto a sostituire una giustificazione all'altra per quanto concerneva l'assenza della sua ragazza. Una soluzione più complicata prevede che lui dapprima abbia buttato lì una giustificazione qualsiasi e che poi non abbia trovato né tempi né modi per correggerla in modo da non accentuarne il significato. Perché spesso, vedete, dar troppo peso ad una bugia o ad una cosa detta tanto per dire che poi si rivela sbagliata equivale